GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Incentivare la scelta dell'Italia come luogo per investire, su questo si concentra la due giorni che si è aperta oggi a Trieste, tra i ministri presenti anche quello dell'economia Giorgetti. Trentenne salvata dai vigili del fuoco in Carnia sul greto del torrente But, era ancora cosciente e ha riferito di essere scivolata. Le sue condizioni sono gravi. In preoccupante crescita anche in regione l'assunzione di droga tra i lavoratori, anche con mansioni a rischio. Spiazzante l'indagine di una grossa società di servizi alle imprese. Il 12 aprile la consegna della laurea honoris causa al presidente Mattarella e all'ex capo dello Stato sloveno Pahor. I primi dettagli della visita. In prefettura a Udine un tavolo di conciliazione sulla riorganizzazione dei due nidi comunali dopo la decisione del comune di appaltare ai privati la gestione di una delle due strutture. Al Consorzio Universitario di Pordenone fino a mercoledì più di 100 ragazzi da tutta Europa per la sessione regionale del Parlamento Europeo Giovani. Finalista a un concorso europeo il progetto che promuove la conoscenza del bosco di Muzzana del Turniano, un habitat dalla grande biodiversità a cui gli abitanti del territorio sono molto legati. Raggiunge anche Trieste questa sera il viaggio nella vocalità italiana del Settecento da Napoli a Venezia. Protagonista uno specialista assoluto del genere, il tenore Jan Bostridge. In apertura la cronaca, una giovane donna di circa 30 anni è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco a Tolmezzo dopo che era caduta da un ponte finendo sul greto del torrente But. L'allarme è stato lanciato intorno alle 7.30 di oggi. Sul posto è intervenuta la squadra spelo alpino fluviale dei vigili del fuoco che ha rinvenuto la donna riversa sul greto del torrente in una zona impervia dopo una caduta da un'altezza di alcuni metri. Fortunata era cosciente ed è riuscita a riferire di essere scivolata. È stata raggiunta dai sanitari e dalle squadre di soccorso che l'hanno stabilizzata e caricata su una barella. Sul posto sono intervenuti anche l'elicottero sanitario e i carabinieri. Le condizioni della trentenne, che è stata ricoverata all'ospedale di Udine, sono gravi e i sanitari si sono riservati la prognosi. E ora parliamo dell'evento che ha preso il via a Trieste, la seconda edizione di Selecting Day, due giorni di confronti, tavoli di lavoro, momenti di formazione in cui le regioni incontrano portatori di interesse, mondo accademico, istituzioni e diversi ministri. L'iniziativa alla seconda edizione è dedicata all'attrazione degli investimenti da parte del Sistema Italia. Il servizio. Oggi investire in Italia conviene perché abbiamo un alto sistema formativo, conviene perché anche i prezzi del mercato immobiliare in primis rispetto ad altri partner occidentali ed europei sono estremamente competitivi. Dobbiamo saperlo però raccontare perché la narrativa attuale fa passare l'Italia come un paese dove gli investimenti non si possono fare. Così il presidente della regione Massimiliano Fedriga a microfono pochi istanti prima che iniziasse il Selecting Italy 2024, importante evento di sistema per l'attrazione degli investimenti esteri in Italia. È in corso oggi e domani in un convention center di Porto Vecchio allestito ad hoc con le regioni protagoniste e dal territorio sono arrivate a Trieste istituzioni locali, imprese di eccellenza e università. E da presidente della conferenza delle regioni Fedriga non ha nascosto il problema della difficoltà di trattenere in Italia i giovani ben formati qui e che poi vanno altrove dove trovano soddisfazione maggiore, soprattutto negli stipendi. Presente il ministro dell'economia e finanze Giancarlo Giorgetti, al quale abbiamo chiesto se effettivamente c'è un problema di salari in Italia. Sicuramente sì, ha dichiarato Giorgetti, dobbiamo lavorare con le imprese per offrire stipendi più competitivi e anche noi come governo dobbiamo aiutare le imprese in questo. E poi c'è la questione della burocrazia, troppa e delle troppe norme incerte. Servono regole chiare che durino nel tempo, ha dichiarato Fedriga, una posizione che il ministro condivide e poi aggiunge abbiamo il tempo per lavorare bene perché questo governo durerà per i prossimi 4 anni, cosa rara in Italia. E poi anche una breve parentesi triestina, margine del convegno, a Giorgetti è stato chiesto se si sta lavorando sul futuro presidente dell'autorità portuale di Trieste dopo le dimissioni anticipate di Zeno D'Agostino, anche se la futura nomina non sarà di sua competenza ma del ministro dei trasporti. Salvini e Fedriga troveranno la persona giusta per questo ruolo e dimostreranno di andare d'accordo, diversamente da come voi giornalisti, ha detto Giorgetti, raccontate che stanno sempre a litigare. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Droga nel mondo del lavoro, un fenomeno che appare in preoccupante crescita anche in regione. Spiazzante il dato che emerge dalla sorveglianza sanitaria svolta da una grossa società di servizi alle imprese sui lavoratori con mansioni a rischio. Il grido d'allarme sull'uso di droga nel mondo del lavoro arriva dalla Coram Servizi Imprese, grossa società che si occupa di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Nei suoi ambulatori di Remanzacco si registra un aumento preoccupante di lavoratori positivi al test antidroga, obbligatorio per chi svolge mansioni a rischio. Dei 3.500 lavoratori obbligati agli accertamenti per alcol e droghe che Coram segue per conto di oltre 1.300 aziende dei settori manifatturiero, servizi ed edilizia, lo scorso anno in 147 sono risultati positivi alle droghe, per lo più cannabinoidi e opioidi. L'anno prima erano 119, quest'anno sono già 45 da gennaio ad oggi. Spiazzanti anche i risultati degli ultimi giorni, come spiega Manuel Monte, tra gli infermieri che alla Coram eseguono i drogatest. Solo in quest'ultima settimana passata abbiamo riscontrato ben 5 positivi a droghe più varie come THC, cocaina, morfina, eroina. Età dai 18, o meglio dai 25 alla quarantina. In questo caso erano tutte visite con preavviso di 24-48 ore. Nella gran parte dei casi sono tutti casi confermati dal secondo livello. Devo dire che c'è stato un forte aumento da dopo il Covid in poi dei numeri di positività. A preoccupare che si tratta di lavoratori che svolgono lavori a rischio sicurezza proprio e altrui, come autisti, carrellisti, mulettisti e scavatoristi. Sono inconsapevoli sia del fatto che queste sostanze permangano nel tempo all'interno dell'urina in questo caso, sia del fatto di cosa rischiano, sia a livello loro personale e sia a livello di chi sta intorno. Spiega che la positività alle droghe si riscontra soprattutto tra chi è in procinto di essere assunto, ma i casi stanno aumentando anche nei monitoraggi periodici tra i dipendenti fissi, che sanno di essere controllati annualmente. In caso di positività scatta la sospensione e l'invio al SERD a spese del datore di lavoro, come già gli accertamenti obbligatori. In aumento anche i positivi all'alcol test, ma più nei controlli in azienda, a sorpresa o in caso di sospetto positivo, sempre più richiesti. Il presidente di Coram Servizi Imprese, Riccardo Cisilino. Stiamo anche ricevendo molte chiamate dai datori di lavoro che ci contattano per evidenti stati di alterazione dei lavoratori durante l'attività lavorativa. Abbiamo un dato in aumento perché sono oltre 150 i casi di chiamata durante l'anno. Positività sono quasi il 100% in questo caso. Prevalentemente alcol, c'è questa pessima usanza da parte dei lavoratori di bere alcolici durante la pausa pranzo. Ma anche le droghe sono spesso evidenziate da questi tipi di test. Remanzacco, Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Il 12 aprile il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella tornerà a Trieste per un importante appuntamento. Sentiamo quale sarà il programma della visita. Si sta definendo a grandi linee il programma della visita a Trieste del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che assieme al suo ex omologo sloveno Borut Pahor riceverà la laurea honoris causa in giurisprudenza all'Università del Capoluogo Giuliano per celebrare l'importanza storica della doppia stretta di mano tra i due presidenti avvenuta nel luglio del 2020 davanti alla foiba di Basovizza. Il capo dello Stato dovrebbe arrivare all'Ateneo triestino alcuni minuti prima delle 11 salendo la scalinata dell'ingresso principale. Poi, nell'aula cammarata, è previsto un colloquio privato con Pahor e relativo scambio di doni. La cerimonia del conferimento inizierà in seguito e dovrebbe durare un'ora esatta. Questo è quanto trapela dal rigido cerimoniale del Quirinale. Dopo il discorso di benvenuto tenuto dal rettore Roberto Di Lenarda, ci sarà la vestizione dei laureandi e la laudatio sarà tenuta da Davide Rossi e Fabio Spitalieri, docenti del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Trieste. Le note dell'orchestra e del coro dell'Università Triestina intoneranno gli inni dei due stati, chiuderanno la cerimonia gli interventi ufficiali dei due neolaureandi. A rappresentare il governo italiano ci sarà il ministro dei rapporti con il Parlamento Luca Ceriani, mentre manca ancora la conferma per Anna Maria Bernini, capo del Dicastero dell'Università e della Ricerca. Alla fine della cerimonia il presidente Mattarella dovrebbe recarsi in prefettura prima di ripartire per la capitale. Trieste, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. Diamo ora uno sguardo al tempo. Cielo sereno, poco nuvoloso sulla regione. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste Udine 17,5 gradi, a Pordenone 20,5 gradi, a Gorizia 21 gradi, a Sappada 13,5 gradi, a Piancavallo 17,5 gradi, a Forni di Sopra 19 gradi, a Tarvisio 20, a Tolmezzo 21, sul Monte Lussari 14 gradi, sul Monte Zoncolan 14,5 gradi, a Grado 17,5 gradi, a Lignano 20. Nelle prossime ore avremo cielo sereno o poco nuvoloso per la presenza di velature ad alta quota, temperature al di sopra della media del periodo, specie in montagna, venti a regime di brezza. A Udine il prefetto ha convocato questa mattina un tavolo di conciliazione sulla riorganizzazione dei due nidi comunali a gestione diretta, il Sacche Buracche e il Fantasia dei Bimbi. Nodo del contendere la scelta annunciata dal comune di appaltare a una ditta privata la gestione di una delle due strutture. Dopo quasi due ore di confronto è fallito il tavolo di conciliazione convocato in prefettura a Udine per raffreddare i rapporti tra amministrazione comunale e sindacati FP-CGL, CISL-FP, UIL-FPL e CISL-enti locali, ovvero le sigle del comparto scuola. A convocarlo è il prefetto, preso atto dello stato di agitazione proclamato dopo la decisione del comune di appaltare a ditta privata la gestione del nido Fantasia dei Bimbi di via Diaz, come già accade per i nidi comunali Cocolar e Dire Fare Giocare. Solamente il Sacche Buracche che di via Baldassarea Media resterà a gestione diretta da parte del comune. I sindacati contestano innanzitutto la mancata conferma di 11 lavoratori a termine, 8 educatori e 3 operatori d'appoggio, con contratto in scadenza il 31 luglio. Critici anche con il metodo scelto da Palazzo Daronco, definito antisindacale, avevano già disertato una convocazione perché l'amministrazione aveva anticipato la sua decisione tramite una conferenza stampa, annullando di fatto ogni discussione arrivata a 9 mesi dalla prima richiesta di incontro. Ci confronteremo con le lavoratrici e i lavoratori in assemblea e valuteremo ora il da farsi, indica Vanessa Spanò della FP-CGL a margine dell'incontro. Respinge invece al mittente le accuse l'assessore Federico Pirone. Ci sono stati incontri prima della nostra decisione, afferma. Abbiamo proposto una mediazione sui lavoratori a tempo determinato, ma le parti rimangono distanti perché si è voluto ridiscutere completamente una scelta. La posizione del Comune di Udine è che l'esternalizzazione del servizio nido, nell'ambito di una più complessiva riorganizzazione, potrà garantire 67 posti di asilo nido in più tra pubblico e privato e l'orario prolungato, con la chiusura che slitterà dalle 16 alle 17.30. Assumere 16 educatori e 6 addetti era stato giudicato troppo oneroso per un costo stimato di oltre 1 milione. Udine, Lillo Montaltomonella, TGR, Friuli Venezia Giulia. A Pordenone il Consorzio Universitario ospita la sessione regionale del Parlamento Europeo Giovani 2024. 140 ragazze e ragazzi provenienti da tutta Europa sono riuniti fino al 10 aprile al Consorzio Universitario di Pordenone per la sessione regionale del Parlamento Europeo Giovani, iniziativa che ha l'obiettivo di promuovere la dimensione d'identità europea nelle università e nelle scuole secondarie superiori quest'anno a tema sostenibilità ambientale. L'organizzatrice Veronica Gaspardo. I delegati sono arrivati oggi, adesso stiamo facendo il General Team Building, che è un modo un po' per rompere il ghiaccio, e si fanno dei giochi e dopodiché i partecipanti verranno divisi in delle commissioni che sono dei gruppi di lavoro. Ogni commissione viene assegnato un tema e si occuperanno di stilare una risoluzione e l'ultimo giorno durante l'assemblea generale ne discuteranno tutti insieme in una sorta di dibattito. What's your idea of Europe? Per me Europa significa incontrarsi tra persone di culture e provenienze diverse, ci spiega questo ragazzo di Berlino, stare bene insieme, guardare a ciò che abbiamo in comune indipendentemente da dove veniamo. Antonella Bini, docente del Malignani. Quanto sono importanti queste esperienze di scambio con ragazzi e ragazze europee per questi giovani? Sono importantissime perché aprono loro la mente, li abituano a lavorare insieme agli altri, li abituano a collaborare, a crearsi nuove prospettive e diciamo anche, siccome sono ragazzi che presto voteranno, a sapere quanto sia importante il voto. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. A Muzzano del Turniano un progetto per tutelare la biodiversità è arrivato fra i finalisti di un concorso dell'Unione Europea. Uno scrigno di biodiversità sopravvissuto a secoli di sfruttamento antropico e crisi climatiche è quello dei boschi di Muzzana del Turniano, 320 ettari di querce, frassini, olmi, ontani, carpini e altre specie arboree, il relitto più importante dell'antica foresta di lupi già descritta dai latini Virginio e Plinio il Vecchio, che si estendeva dal fiume Livenza al fiume Isonzo. Un habitat unico che ospita tassi, volpi, caprioli, donnole, cinghiali e, grazie alla vicinanza con la laguna di Marano, anche moltissime specie di uccelli, soprattutto nei periodi della migrazione. migrazione. Da secoli i boschi sono una proprietà collettiva della comunità di Muzzana, che ne ha sempre tratto legname e cibo secondo gli usi civici. Negli abitanti di Muzzana il bosco è sempre presente, sia per chi va a funghi, sia per chi è cacciatore, sia per chi va solo a camminarci come noi. L'associazione Artetica è nata nel 2006 e da allora lavora per diffondere la conoscenza di questo luogo. Abbiamo cominciato la costruzione di un sito in maniera molto artigianale, in cui abbiamo cominciato la raccolta del materiale. Si tratta di boschidimuzzana.it, nato fin da subito non solo come pagina web, ma come progetto comunitario per studiare, promuovere e difendere la biodiversità di quest'area verde. Il nuovo sito, è notizia di pochi giorni fa, ha raggiunto un risultato importantissimo e inaspettato, arrivando in finale all'European Natura 2000 Award, un concorso organizzato dall'UE per premiare i progetti di salvaguardia e tutela dei siti di interesse Natura 2000. I vincitori saranno annunciati a Bruxelles il 29 maggio. Inizialmente non avevamo grandi aspettative, però in realtà fra 107 candidature siamo stati scelti fra i 27 finalisti. Gli spettacoli con il tenore britannico Ian Bostridge, che ieri sera si è esibito a Pordenone, questa sera sarà a Trieste. Un viaggio nella vocalità italiana del Settecento e tra i due poli musicali più importanti dell'epoca, Venezia e Napoli, e in particolare tra le arie d'opera scritte per la voce di tenore, fatte di spettacolare virtuosismo, ma anche della cura per la melodia, che è un marchio di fabbrica del Made in Italy musicale. A presentarle al pubblico del Verdi di Pordenone uno specialista assoluto, Ian Bostridge, che a questo repertorio ha recentemente dedicato un progetto discografico. Ad accompagnare il tenore inglese e ad eseguire in proprio alcuni brani strumentali delle opere, un complesso altrettanto specializzato nel repertorio barocco, la Cappella Neapolitana di Antonio Florio. Nel programma, accanto al nome di Antonio Vivaldi, quelli di autori decisamente meno familiari al grande pubblico, in un concerto che è tutto da scoprire e che si potrà riascoltare stasera a Trieste per la Società dei Concerti. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. Passiamo allo sport con il calcio. Nella 31esima giornata di Serie A, tutto esaurito a Udine per l'arrivo della capolista Inter. Una vittoria porterebbe i bianconeri di Cioffi a +6 sulla zona retrocessione. Squalificato Lucca, al centro dell'attacco dovrebbe esserci Sassesso. Si gioca alle 20:45. Invece ieri Triestina battuta dalla Virtus Verona a Fontanafredda per 1-0, vittoria meritata della Virtus, che porta così a casa 3 punti importanti nella corsa a salvezza. A decidere il gol di Mekic, la ripresa che interrompe gli ultimi risultati positivi dei rosso alabardati. La Triestina ha giocato svogliatamente, nonostante un'avversaria in emergenza per le assenze, pagando i tanti impegni ravvicinati dove il turnover non ha fornito il giusto supporto sperato. La Triestina rimane dunque ancorata al quarto posto con 60 punti all'attivo. Basket, mancano 2 turni alla fine della fase a orologio della A2. Tra le regionali, l'unica vittoria nell'ottava giornata è arrivata da Cividale, passata anche sul parquet dell'Urania Milano. Sconfitte la APU per mano dell'ultima dell'altro girone, il Monferrato e la Pallacanestro Trieste, opposta alla capolista Trapani. Il prossimo turno inizierà venerdì con Gesteco Cividale Monferrato, sabato l'APU ospiterà a Udine la Sebastiani Rieti, domenica Trieste affronterà in casa l'Urania Milano. La classifica vede l'APU al secondo posto appaiata alla Fortitudo Bologna, Trieste quinta e Cividale provvisoriamente settima, ma 2 avversarie dirette, Rimini e Cento, hanno una partita in meno. Prima di chiudere ancora qualche appuntamento, il Propeller Club di Trieste, presieduto da Fabrizio Zerbini, organizza un incontro dal titolo Orizzonti Nucleari, sfide e opportunità dell'energia del futuro. Tra i relatori anche 2 ingegneri coinvolti nel progetto ITER, lo studio sulla fusione nucleare gestito dall'Unione Europea, alle 18:30 nella sala della Piccola Fenice in via San Francesco a Trieste. Sarà inaugurato oggi il campo di calcio a 7 di Muggia. Dopo una breve illustrazione dei lavori eseguiti da parte del Comune, si terrà una partita con protagonisti i bambini e una sfida di rigori che coinvolgerà la giunta comunale e i dirigenti del Muggia 2020 e dello Zaule, dalle 17:30 allo Stadio Zaccaria. La storica dell'arte Francesca Nodari terrà una conferenza su Marco Bozzari, eroe del risorgimento greco e il filo ellenismo italiano, focalizzando il suo intervento su un paio di opere conservate nel Museo Pisani. La storica Caterina Caradima inquadrerà quel periodo della storia greca. L'appuntamento è alle 17 nella sede della comunità greco-orientale di Trieste. Per il Teatro Aleggio la rassegna organizzata dall'Associazione Amici della Contrada arriva a Trieste La signora Laurie e il figlio di Martin Hesford, nella traduzione di Marco Casazza per la regia di Elke Burul, con protagonisti Ariella Reggio e Giovanni Boni, che tratteggia il difficile rapporto tra Lawrence Stephen Laurie, uno dei pittori inglesi di spicco della prima metà del Novecento, e la madre, alle 18 al Teatro Orazio Bobbio. Finisce qui questa edizione del giornale radio regionale, che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Lara Zani. In regia per la parte tecnica Vassia Krismancic. Ha collaborato in redazione Laura Sarasini. A tutti voi grazie per averci seguito e un buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.